a bordo campo. UCI will ban Lance Armstrong from cycling and UCI will strip him of his 7 Tour de France titles. Lance Armstrong has no place in cycling. Con queste parole il presidente dell'Unione Ciclistica Internazionale Pat McQuaid ha cancellato i 7 Tour de France vinti da Lance Armstrong e la carriera di quell'americano che campione sì è stato, ma lo abbiamo scoperto in questi mesi, soprattutto grazie al ricorso sistematico al doping, così come ha rivelato l'inchiesta promossa dall'agenzia antidoping statunitense. Ebbene, Unione Ciclistica Internazionale, che non è esente da responsabilità in questa vicenda, è stato detto da più parti, e in questa puntata di A Bordo Campo, dedicata proprio alla parabola di Armstrong, abbiamo voluto sentire il parere del vicepresidente dell'Unione Ciclistica Internazionale, che è anche presidente della Federciclo Italiana, Renato Di Rocco. Come legge la parabola, la storia di Lance Armstrong e soprattutto come vede il vicepresidente dell'UCI il futuro del ciclismo mondiale? Noi abbiamo insistito anche con l'UCI perché si facesse chiarezza in Italia per quanto riguardava i nostri problemi, avevamo cercato di anticiparli mettendo in campo anche qualcosa di più che andasse solo sui controlli medici o sugli strumenti che comunque quelli che utilizza il ciclismo e di cui si è dotato sicuramente sono quelli più sofisticati e più all'avanguardia di tutte le altre discipline, parlo nel passaporto biologico. Ma a questo va affiancato tutta un'opera di nuova cultura che noi abbiamo iniziato proprio anche dai giovanissimi, perché la bicicletta deve essere una compagna di gioco, deve essere divertimento, non ci devono essere pressioni da parte dei genitori per un agonismo precoce. Erano anni che questo campione straordinario era discusso e le voci su di lui si rincorrevano. Cioè, mi sembra che da questo punto di vista forse molti dei testimoni che hanno parlato in questo momento avrebbero potuto farlo prima e con maggior vigore. Beh, esatto quello che ha detto. Intanto parliamo purtroppo ancora di periodi pregressi prima dell'istituzione del passaporto biologico, stiamo pagando ancora conseguenze gravi. Certo, la cosa peggiore che il ciclismo possa fare o i campioni del ciclismo possono fare, ne abbiamo avuto di presenza anche in Italia, è illudere gli spettatori, il pubblico, entusiasmarlo e poi deluderlo con una bugia o con delle falsità. Questo è veramente la cosa più critica che dobbiamo evitare nel nostro mondo. Bisogna ragionare su quello che l'USADA ha raccolto e condivido l'espressione del Presidente Mondiale sul fatto che abbiano fatto un buon lavoro. Eravamo un po' preoccupati che la sanzione fosse stata data senza un minimo di procedimento disciplinare. Evidentemente il dibattito non c'è stato proprio perché le prove erano una valenza forte, questo bisogna condividere questo. Che cosa posso dire? Il ciclismo in questo momento è indifendibile, anche se devo dire che si registra un clima migliore, nuovo, perché gli strumenti di cui ci siamo dotati sicuramente fanno sfuggire di meno eventuali possibilità di evadere le norme o comunque di seguire percorsi sbagliati. L'attenzione deve essere alta e io dico che bisogna guardare avanti, la popolarità è altissima e evidentemente paghiamo anche questo. E io credo che il ciclismo a questo stato debba mettere in campo il massimo di quello che possa mettere proprio per dimostrare che non vuole tollerare più nulla e che a nessuno sarà più concesso nulla. Se c'è stata qualche disattenzione o superficialità in passato, ne dobbiamo prendere atto e serrare di più la situazione. Si parlava di collusione, ma da parte della Federazione Mondiale con l'ANSE o con dirigenti precedenti, ma negli atti che ha fornito l'USADA di tutto questo non si parla. Però io credo che il ciclismo in genere e forse anche quello italiano possa essere anche parte lesa in questa situazione, perché noi siamo andati avanti con molta determinazione, dando per scontato che tutte le cose fossero fatte in buona fede. Dobbiamo vedere tutta la documentazione per vedere se per caso c'è stato qualche atto che possa aver leso anche il civile italiano. Quindi ecco, nel caso siete disposti a scendere in campo, anche non so, come parte civile in un procedimento penale? Sì, se ci si dovessero evidenziare gli elementi, sì, per il momento si parla solo di alcuni atleti italiani che, devo dire, per fortuna hanno già avuto tutti dei procedimenti disciplinari. Io mi lamentavo molto con alcuni procuratori o magistrati e li invito ancora una volta a fare di più e più velocemente, perché abbiamo bisogno proprio di cancellare questa tristezza di un ciclismo che ormai è passato, per fortuna, e guardare con fiducia in avanti. Nel caso in cui si presentassero questi elementi, non avremmo dubbi a farlo. Quindi fa riferimento soprattutto all'inchiesta di Padova, no? Che procede con tempi spediti, direi. Spediti, insomma, sono anni che si parla di questo. No, adesso c'è avuto un'accelerazione. Sono di fuori via usato, insomma, io credo che tutto il sistema della magistratura civile e sportiva italiana non faccia bella figura. Se c'erano questi documenti in Italia, potevano venire fuori in base all'accordo che esistono fra tutte le procure d'Italia e la procura del CONI, e avremmo anticipato i tempi proprio per dare un senso di giustizia a tutto il mondo del ciclismo, a degli appassionati. Chi ha sbagliato paga, però per fortuna il ciclismo ha buoni atleti, ha una nuova generazione che, insomma, abbiamo preso per mano dagli ultimi 2 anni e cerchiamo di guardare con ottimismo a riprodurre emozioni sane e a tutto il nostro pubblico. Nel suo ruolo di vicepresidente dell'UCI, presidente Di Rocco, si sente di rimproverare, di biasimare in qualche modo anche gli organizzatori delle grandi corse ciclistiche internazionali? Possibile che a nessuno fosse venuto prima un sospetto o che nessuno sapesse, perché Lance Armstrong era campione discusso da anni e sotto i riflettori da tempo? Insomma, non c'è stata forse una mancanza di attenzione, di zelo nei controlli, oppure addirittura una complicità, se non nei fatti, quantomeno ideale, nel cavalcare questo fenomeno che tutto sommato faceva parlare del ciclismo, attirava sponsor, era un moltiplicatore di ingaggi e soldi per tutti? Questa può essere una valutazione. Io devo dire che l'ANSA ha fatto 400 controlli, poi se fosse in qualche maniera cautelato da qualcuno, da questi documenti non si ravvisa, però insomma io spero che l'USEI vada avanti nella ricerca e apra tutte le finestre possibili per fare chiarezza in maniera definitiva. Per cui i controlli li ha fatti, evidentemente gli strumenti all'epoca ancora non erano così incisivi, così raffinati per poter evidenziare tutte le terapie o le procedure che seguiva Armstrong e a questo punto anche tutti i suoi compagni di squadra. Mi par di capire dalle sue parole, Presidente, che questa, per quanto clamorosa, è solamente una parte iniziale, una prima pagina di un percorso che meriterebbe altri e ulteriori approfondimenti anche a livello di inchiesta. Io spero che ci sia, insomma, adesso abbiamo una parte della documentazione, ma un'inchiesta così importante, così distribuita su più nazioni, con l'Interpol che agisce come coordinamento, spero davvero che ci aiuti a far piazza pulita in maniera definitiva e poi, insomma, che non rimanga sempre soltanto l'atleta a pagare danni di un sistema che evidentemente era legato e che lavorava per quelle finalità. Io dico alcune parole che ho letto dall'agenzia stampa, quando il nostro presidente mondiale dice che forse chi ha sbagliato può essere di maggior aiuto per così diffondere culture differenti e buoni comportamenti. Io spero che sia questo. Da noi è già successo, parlo di Ivan Basso, che poi si è messo a disposizione con i suoi dati biologici, con la sua capacità di dialogare anche col mondo dei giovani, via dicendo. Ecco, io spero che tutta questa negatività possa diventare un'opportunità migliore per comunicare, per informare preventivamente tutti i giovani che si avvicinano al ciclismo. Assolutamente d'accordo, Presidente Di Rocco, grazie per essere stato nostro ospite qui a Radio 24. A voi e buon lavoro. Per questa puntata di A Bordo Campo è tutto, grazie a Valeria Bernardi in regia. Vi ricordo che potete scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it, riascoltarci attraverso il nostro sito www.radio24.it e dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo, sempre sulle nostre pagine web. L'appuntamento, come d'abitudine, è per domenica prossima alle 14.30 e in replica ogni sabato mattina alle 6.30. Buona giornata da Dario Ricci.